9. Ma la morte era entrata nella mia vita. Il piccolo Pietro le aveva additato la strada, le aveva aperto la porta, e da quel giorno in poi la nera visitatrice non lasciò più le mie soglie. La morte, appostata sul limitare, terribile e silenziosa, ogni tratto allungava la mano ed afferrava qualcuno dei miei. Il più delle volte fu con un gesto rapido, un breve morbo, un colpo di rivoltella che abbatteva e gettava nel buio coloro che io amai. Ma per me, la morte ha gesto più solenne, più lento, per me ha preparato ben altra fine. Già da anni la sento strisciare verso di me, lenta, insidiosa, spaventevole, ed ha nella mano un nodo di serpi, ognuna delle quali mi morderà. Ecco la serpe della malattia che subdola, entra in me, si nasconde nel mio seno, al momento soave del secondo puerperio, quando il mio sangue è tutto latte blando e di infinita dolcezza, ecco la serpe mi morde, e il mio petto si intossica e si corrompe. L'infezione mi serpeggia per le vene, scende nelle viscere sacre alla maternità e le attanaglia, le dilania, e la mia tortura trabocca e dilaga nei vermigli fiotti delle emorragie. Oh! È facile cosa per una donna l'essere gaia, tenera, buona, quando nel suo corpo fiorente e sano brilla, face calma, il suo spirito sereno. È facile essere una grande anima quando non ci si ricorda di avere un debole corpo. Ma quando si porta in sé pulsante, persistente, incessante il dolore, conficcato nel più profondo dell'essere, come una punta di ferro rovente, ah, come esso spinge alla crudeltà, al delitto, alla pazzia. La pazzia. Silenzio. Ecco una seconda serpe che sguscia dalle scarne unghie di suora morte e corre verso di me. È un serpentello variopinto e gaio, ha la testa piccola, aguzza, ha un nome noto che non spaventa, la nevrosi. È nulla. Perché averne paura? Io mi stringo il capo tra le mani. Mi copro il volto, le orecchie, ma ahimè la viperetta aguzza e minuscola mi è scivolata nel cervello. Ecco, vi si annida, a spirale, a cerchio, si aggira, si arrotola. Ma che cos'è? La viperetta si allunga, si gonfia, ingrossa, ingigantisce, mi riempie il cranio, diventa una massa formidabile, mostruosa, enorme, e sempre ancora s'allunga, cresce, si gonfia. Non è la nevrosi, è la demenza. Io giro per il mondo e porto nella mia testa quella titanica serpe che ogni giorno, ogni notte cresce e ingigantisce. Verrà l'ora in cui le deboli pareti della mia fronte si spaccheranno e corrà capriccio il mondo vedrà l'enorme mostro che ho portato in me. Ma che vedo? La morte sorride e mi tende un ultimo angue che immobile e breve le giace nella mano. È un angue strano, luccicante, ha il corpo di vetro e la lingua è un ago d'acciaio. Trepida, tendo la mano. Ah, ecco, anche questa serpe mi morde. Mi morde nelle bianche carni del braccio. Le mie braccia, le mie spalle sono tutte punzecchiate da piccoli fori dove l'angue di Pravaz mi morsicò. Ecco, da esso il liquore della coca e il latte o sugo del papavero mi sprizzano nelle vene. Dalla piccola ferita sorge una lenta stilla di sangue ed io fremo col dito sul lieve tumidore e stropiccio dolcemente. Il tossico si spande, si diffonde. Ma che avviene? Col morso di quest'angue maliardo tutto si calma, tutto si acquieta. Cade ogni strazio che è in me, fluisce il balsamico veleno per le mie vene e mi satura di penetrante dolcezza. Non più il ferro rovente mi dilania le viscere. Nel mio cervello l'enfiato mostro della demenza si contrae, si restringe, si scioglie. Nel mio capo c'è aria, luce, vuoto e leggerezza. Io mi sento rinascere, nuova, mattutina, primaverile, estatica, cammino sulle nubi, sono leggera, ispirata, aerea, batto con la fronte nelle stelle. Ma dunque è questo il segreto della felicità? Questo? La piccola puntura di cocaina? Ma dunque sempre, quando io voglio, non ho che a stendere la mano e il paradiso è mio? Ora, una voluttuosa, vaga sonnolenza mi avviluppa, morbida e lieve come un'ovatta fatta d'aria. Sento le mie palpebre calare come cupi sipari di velluto nero sulle mie pupille contratte. Delicate stille di sudore si imperlano sulla mia fronte. Ho il polso piccolo e celere come un fremito d'ali. Ho un lieve formicolio nelle membra, un leggero trillio nelle orecchie. E Lene, Lene, scivolo nella beatitudine del sonno. Aiuto, aiuto, aiuto, mi sveglio e muoio di mille morti torturanti. Tutte le serpi sono rideste in me, tutte sono di fuoco, dal morso rovente. Migliaia di spilli mi bucano gli occhi, migliaia di cataratte mi rombano nelle orecchie, un parossismo infinito mi contorce, un parossismo crescente fino all'insoffribile e che oltrepassa l'insoffribile e cresce ancora. Soccorso, soccorso, soccorso. Le mie mani grondanti sudor freddo trovano l'astuccio in cui dorme la vitrea viperetta dell'oblio. Trovano la piccola fiala in cui il liquido cristallino si è mutato in una fine polvere biancastra. Rapida, accendo una candela e sulla fiammella ondeggiante scaldo la boccetta di veleno. Ecco l'acuminata bocca dell'angue ha bevuto, il suo corpo vitreo si è riempito del limpido liquore. Snudo il braccio. Ah, serpi, che mi lacerate il cuore, i visceri, il cervello. Ecco, dormite dunque, dormite. 10. Sergio Bozevsky a Stepan Nekrasov. Caro Stepan, buon amico mio, sono qui in casa di tuo cugino, il dottor Stahl, che mi par diventato lungo e magro come un'ombra, e qui mi giunge la tua lettera. Tu mi dici di scriverti e di parlarti di me. Oggi, 15 ottobre 1903, ho 24 anni. Per la mia festa natalizia, quale regalo avrò dal destino? L'amore? La ricchezza? Un'eroica morte? Il tuo Stahl, con la sua voce che sembra giungere da un sotterraneo, mi disse che il regalo del destino sono appunto i 24 anni. Forse ha ragione, me li sento nel sangue come 24 cicloni. Il mondo è un turbine di giovinezza. Kaufmann stamane mi ha prestato il suo stallone Sauro, il più bel cavallo dell'impero, e ho fatto una galoppata sul bastione. Tutte le donne mi guardavano. Ho visto in Tilbury la bellissima e sfrontata Teodorova, calda e sguaiata come un paesaggio messicano. Era radiosa in ametiste ed eliotropio, coi ricci rossi fiammeggianti al sole. Soltanto una principessa può permettersi di ostentare tale impudente violenza di colori. Poco dopo vidi in Vittoria la Voroklitskaja, bianca e severa come una vestale. Portava i neri capelli lisci e divisi sulla fronte come ali nere, chiuse intorno allo stretto ovale del volto. Teneva gli occhi abbassati sotto al tranquillo volo delle sopracciglia. Pensai a te. Ricordai, ma quelle palpebre abbassate escludevano i ricordi. Presso di lei sedeva fresca e rigidetta la piccola Miriam Gray, chiusa nella sua gioventù come in un'armatura di rose. La bellezza di tutte queste donne mi corre nel sangue come vino e sole. In fede mia la vita è un'ottima istituzione. E tu che fai? Addio. Tuo amico Bozevski. L'indomani. Stepan, Stepan, Stepan! Sono innamorato, follemente, divinamente, tragicamente innamorato. Stamane sono andato alle manovre come in sogno. Parlando col colonnello avevo una voce tenera e tubante, perfettamente ridicola. Ed esercitando il plotone mi udivo dare i comandi in tono implorante e carezzevole di cui ancora mi vergogno. Sono ossesso, sono allucinato. Mi turbina innanzi agli occhi una creatura lunga, bianca, etiolata, sottile, dalle rosse labbra che non sorridono, dalle chiome che sembrano una caterata di champagne. Me l'ha presentata a Stahl ieri sera, qui in casa sua. Vieni, disse prendendomi il braccio, c'è una bella e mesta creatura che ti vuol conoscere. Porta il mite nome di Maria. Oh, dispensamene, dissi io, le creature meste e miti non mi piacciono. Ma questa ti piacerà, disse Stahl. Non mi piacerà, dissi io. Stahl rise crollando le spalle curve. Guardati, mormorò. Ed io, seguendo la direzione dei suoi occhi, mi voltai. Colei di cui egli mi parlava era un passo dietro di me, alta, floreale, dal viso calmo e misterioso. Aveva udito, e mentre io mi chinavo ad ossequiarla, disse: La cosa importante non è già che io vi piaccia, ma che voi piacciate a me. Signora, dissi, e a mia propria meraviglia sentii un brivido di sincerità corrermi per le fibre. Piacere a voi sarà d'ora innanzi la meta unica della mia esistenza. Ella mi fissò un istante, poi disse lentamente: Già l'avete raggiunta. Si volse E mi lasciò. Io rimasi stupefatto dalla breve frase ardita e dal folgorio di quello sguardo chiaro. Ella non aveva sorriso. Per tutta la sera non mi parlò più. Partendo, mi guardò ancora una volta senza sorridere e senza salutare. Alzò per un istante quelle palpebre frangiate di nero e mi fissò. Poi riabbassò gli occhi. Fu come un lume che si accende e si spegne. Ed io ne sono innamorato, follemente. Divinamente, disperatamente innamorato. Ah, Stepan, l'amore, quale estasi e quale sciagura. Tuo Bozevski. Fu il dottor Stahl, il satanico Stahl, che ebbe da suo cugino queste due lettere e che in un giorno vuoto e tedioso me le mostrò. Io ne rimasi smarrita ed agitata. Come? Tanto piacente e conturbevole ero io agli occhi del fiero giovane polacco, al più bell'ulano della guardia imperiale? Mi ripetevo i suoi aggettivi inquietanti, floreale, misteriosa, etiolata, e la sera nella mia camera, sciogliendo i miei capelli pagliettati d'oro, pensavo: sembrano davvero una caterata di champagne. Uscendo non sorridevo mai, anche quando ne avevo voglia, perché egli aveva trovato dolce e misteriosa la mia gravità, ed egli giorno e notte mi seguiva come un'ombra. Come un'ombra? Ah no, piuttosto come una fanfara di luce. Dovunque io volgessi lo sguardo, incontravo il suo radioso sorriso, la sua fervida passione era tutta intorno a me, come un nimbo di fiamme e di raggi. Io ne ero felice e spaventata. Una sera a pranzo dissi a Vasili: Vasili, portami via, partiamo. E perché? Io mi sentii impallidire. Temo, balbettai, temo che Bozeschi. Ebbene? Vasili si versò della vodka nello champagne e lo beve. Temo che Bozevski si innamori di me. E chi non si innamorerebbe di te, Duscia mia? Disse Vasili con gli occhi accesi. Quanto a Bozevski, che se lo mangino i lupi. E poiché il pranzo era terminato, si levò ed uscì. Io salgo tristemente nella camera dove dormono biondi e serafici Tioca e Tania. Un lume arde alla parete tra i due bianchi letti e illumina il loro quadro preferito. Ingenuo quadro in cui troneggia un Gesù bambino con la corona di conte in testa. Io mi inginocchio tra i due lettini e piango. Viene la zia Sonia nella sua vestaglia di flanella grigia e mi conforta. Spera in Dio, mi dice alzando verso il soffitto la lunga faccia di vergine asessuale, e bevi un po' di camomilla che fa sempre bene. Ed io, contenta di obbedire, faccio così. E penso che verrà un giorno in cui sarò anch'io come la zia Sonia e porterò delle vestaglie di flanella grigia e nel dolore mi rivolgerò al buon Dio e alla camomilla. E vorrei fosse subito quel tempo di riposo in cui sarò anch'io come la zia Sonia, rettilinea e asessuale. 11. Restammo dunque a Kiev e Bozevski venne ogni giorno a trovarci. Mi portava dei fiori meravigliosi, delle orchidee color d'ametista, tenui e contorte, che parevano fiorite in qualche giardino di sogno, e mi portava dei libri, poesie tedesche, romantiche, nebulose, romanzi francesi, perturbanti e suggestivi, drammi spagnuoli di Echque Guerai, eroici e ardenti. Poi fu la volta delle novelle inglesi che riempirono il mio spirito di una nuova ed ingenua giocondità. Come erano lontane da noi quelle trasparenti anime anglosassoni. Come puerile e piacevole era la gaiezza del loro semplice buon umore. Amai quella lettura più di ogni altra, forse perché la sentivo tanto dissimile da tutto ciò che era in me. Mi pareva di essere una creatura strana, ambigua, complicata di fronte a quella chiara semplicità. Bozevski amava assai che io leggessi. Arrivando la sera, quando già Vasili, solo con amici, era uscito, entrava gaio e decorativo nel tiepido salotto, olezzante dei fiori che gli mi aveva dati, ed era felice se mi trovava seduta con uno dei suoi libri in mano, accanto alla zia Sonia che in poltrona faceva un blando lavoro di uncinetto. «Mi piace che i vostri pensieri siano lontani di qui», diceva, baciandomi la mano. «Mi piace sapere la vostra anima lontana da questa città, lontana dai vostri corteggiatori, lontana dalle meschine preoccupazioni della vita che vi circonda. Ecco, io vi vengo a raggiungere fuori del mondo, nel bel reame della fantasia». e mi sedeva accanto, fraternamente affettuoso. Un giorno mi trovò tutta brividi e raccapriccio. «Che cos'è?» chiese. «Che cosa leggete stasera?» «Oh, una storia di Wells spaventosa, figuratevi! Una pianta mostruosa, una specie di immensa piovra a tentacoli che si nutre di carne viva, ha le foglie dure, lucide e nere come tanti scorpioni!» «Brrr!» fece Bozeschi ridendo e chinando sopra la pagina la bella testa soleggiata dai brevi riccioli d'oro. «Una pianta di scorpioni? Oh, mettiamo via! Ecco, vi porto della poesia italiana!» E così dicendo, mi pose in grembo un volume rilegato di marrone, fitto di fogli sottili ed intersparso di pagine autografate in una aristocratica e chiara calligrafia. Aprii a caso e lessi: «Forse Italia è la tua chioma fragrante nel talamo tra due mari seren che sotto i baci dell'eterno amante ti freme e fusa in lunghe anella al sen?» Scordai Wells, scordai Bozevsky, scordai la zia Sonia e il mondo. Il poeta ignoto aveva ravvolto nelle sue ali di gigante la mia anima e la portava lontano. O favolosi prati di Elisio, pieni di cetre, di ludi eroici e del purpureo raggio di non fallace maggio, ove in disparte bisbigliando errano, né patto umano né destin ferreo, l'una dall'altra divelle i poeti e le belle. Fu a quell'epoca che Vasili mi condusse a Mosca. Ivi una sera all'hotel mi venne presentato dagli sposi Maximo fu un signore di cui rammento che non mi sembrò né giovane né bello né interessante. Dissero che era un noto e integerrimo avvocato ed io lo salutai distrattamente senza udirne il nome. V'erano anche sua moglie e tre o quattro altre persone. Dietro proposta di Vasili ci recammo tutti allo Strelna, il famoso ristorante notturno, ed assai si rise per gli scherzi assurdi di Vasili, di Maximov e dell'integerrimo avvocato, con le brune e petulanti zigane. Soltanto la moglie dell'avvocato non rideva. Passavo la mano sulla fronte di Madonnina triste e non ascoltava che la musica. La sua mestizia rattristò anche me e pensai con nostalgico desiderio al salotto fragrante di Kiev, alla mite zia Sonia col suo lavoro d'uncinetto, a Bozevsky e ai libri di novelle inglesi, ingenue e divertenti, e sentivo la sua voce che diceva «Brr, una pianta di scorpioni!» E in quell'istante qualcosa di freddo ed unghiato mi toccò la spalla nuda. Cacciai un urlo che fece venir freddo a tutti, anche a me. Non era poi che l'integerrimo avvocato, che un po' brillo, era salito sul divano dietro a me e per non cadere aveva appoggiato la mano sulla mia spalla. «Ma che cos'è?» esclamò Vasili. «Perché hai gridato così?» «Non lo so», balbettai io trasalendo. «Credevo, mi pareva che fosse uno scorpione». Tutti risero. E per il resto della sera chiamarono costui lo scorpione. Forse era per quel nome o perché ero nervosa e quell'uomo mi stava sempre dietro alle spalle, ma è un fatto che tutta la sera pensai alla piovra del racconto inglese e continuamente mi voltavo, coi brividi che mi correvano per la schiena, per vedere dov'era quell'uomo. E tutto a un tratto non c'era più. Vasili gridò: «Toh, lo scorpione è sparito!» E ridendo forte si pose a contare le zigane. Ma c'erano tutte, ed io ne fui contenta per la povera Madonnina, moglie dello scorpione. Erano le 2 del mattino quando tornammo alle nostre slitte. L'adamantino cielo era tutto incipriato di stelle. Aiutata da Maximov, misi un piede nella slitta e stavo per entrarvi quando con un altro terribile grido mi gettai all'indietro. Avevo posto il piede su qualche cosa di molle, di informe, di vivente che giaceva sotto la coperta in fondo alla slitta. «Ma insomma!» esclamò Vasili. «Che cos'hai, un altro scorpione?» «No, era quello di prima. Era l'integerrimo avvocato ubriachissimo che dormiva.» Ritornando all'hotel, nella mordente aria notturna, chiesi a Vasili: «Chi era quell'uomo?» «Quale uomo?» disse Vasili, che era seduto di fronte a noi e stava pestando i piedini della sposina Maximov. «Ma sai bene, quello che mi ha fatto paura.» «Ah! Lo scorpione?» disse Vasili ridendo. «Quello era Donato Prilukov.» Tornati a Kiev, raccontai a Bozevsky le avventure della serata allo Strelna e gli descrissi anche lo scorpione con quanto spirito potei, ma Bozevsky non rise. La mia assenza lo aveva inasprito ed esasperato. Non sedeva più accanto a me fraternamente affettuoso. Non parlava più di letteratura. Passava le serate a farmi delle mute scene di gelosia e di passione. E la zia Sonia, in quell'atmosfera satura d'elettricità che sentiva intorno a sé, sbagliava i punti dell'uncinetto e diventava acida e irritabile. Oh, bisogna finirla con questo Bozevski. Bisogna andar via, diceva lei, con le oneste gote arrossate. Ne parlerò io a Vasili. Difatti gliene parlò e Vasili, col breve commento solito, oh, siete noiose, ed augurando a Bozevski che se lo mangiassero i lupi, diede ordine che si facessero i bagagli e che si andasse tutti in campagna. 12. E in campagna andammo tutte. E la zia Sonia e i bambini ne furono beati. Ma Vasili, che per non morir di noia doveva sempre procurarsi delle emozioni nuove, stavolta ebbe per novella mania il tiro al bersaglio, riempì la casa di pistole, di rivoltelle, di carabine ed invitò tutti i vicini alle sue gare di tiro improvvisate. Da mattina a sera, in giardino, nel cortile, dalle finestre di casa, era un continuo crepitar d'armi da fuoco. Un pomeriggio, dalla vicina villa dei Grigorievski, ecco giungere nella loro troica anche il dottor Stahl e Bozevski. Mio marito li accolse con grande giubilo, li abbracciò entrambi, aveva perfettamente scordato la cagione della nostra partenza da Kiev. Bozevski mi avvolse subito d'un turbine di estasiata tenerezza. La sua passione, ad un tempo elementare e raffinata, mi perturbava profondamente. Stahl ci osservava, coi suoi occhi chiarissimi, in cui le pupille erano contratte fino ad essere quasi impercettibili. «Dottore», dissi io salutandolo, «che strani occhi avete! Sembrano quelli d'un gatto quando guarda il sole!» Stahl sorrise, quel sorriso da sonnambulo che mi faceva rabbrividire. «Non guardo il sole, guardo l'abisso!» disse lui. «L'abisso del nulla e dell'oblio! Uno di questi giorni, quando sarete infelice, venite da me!» E anche a voi aprirò le porte di quell'abisso estramondano, di quella voragine di gioia che mi inghiotte. Dio ce ne guardi, esclamò Bozevski, gittando a Stahl uno sguardo quasi d'odio. Che malefica voglia è questa di trarre anche gli altri giù nel vostro inferno. È spaventoso, sospirò Stahl. Lo so, ma è parte del vostro male. Io ascoltavo smarrita. Di che cosa parlate? Non comprendo. Non importa comprendere, ringhiò Bozevski, aggrottando le sopracciglia. Stahl è un esaltato, un ammalato, non gli date retta. Non seguite mai il suo consiglio. E adesso, soggiunse, pensate ad altro. C'è vostro marito che vi cerca. Ma Vasili non pensava a me. Si dava un gran da fare allineando le bottiglie che dovevano servire di bersaglio e distribuendo fucili e cariche agli invitati. Ecco, per voi altri, disse a Stahl e a Bozevski, dando a ciascuno un flobert. E la contessa? Disse Stahl con la sua voce cavernosa. Non entra in gara anche lei? Oh no, esclamai, io ho paura. Ma che paura? Gridò Vasili e mi forzò a prendere un fucile. Devi tirare anche tu? E se non sei brava, farò poi il Guglielmo Tell con una mela sulla tua testa. Passò oltre, ridendo, con la Grigorievskaja armata di pistola al suo fianco. Ma io non ero brava. Tenevo il Flaubert a braccio teso e tremavo per paura che i colpi partissero da soli. Stahl rideva, ma Bozevski tentava di confortarmi. Povera dolce paurosa, diceva piano. Ecco, così si fa. E mi metteva la carabina alla spalla, mi poneva a posto le mani e col bel viso acceso vicinissimo al mio, mi mostrava come dovevo prendere la mira. Il profumo dei suoi bei capelli ricciuti, aggiunto alla paura che avevo del fucile, mi dava le vertigini. Là, così, adesso premete il grilletto. No, no, non mi fate sparare, non mi lasciate sparare, gridavo io incoerente e rigida di terrore. Stahl e Bozevski ridevano follemente e mio marito da lontano gridava: Brava, Mura, avanti, spara! No, no, gridavo con gli occhi chiusi e sempre in posizione di mira perché non osavo muovermi. Vasili si impazientiva. Ma cosa aspetti? Io allora dissi piano a Stahl e a Bozevski. Forse oserei se qualcuno mi turasse le orecchie. Tra grande ilarità, Bozevski venne dietro a me e pose le sue due mani sulle mie orecchie. Mi diceva piano delle cose folli e il suo respiro caldo nella mia nuca mi faceva star male. Ma dunque, urgeva Stahl. Sparate da brava! Devi colpire la terza bottiglia! Urlava Vasili da lontano. Ma Bozevski dietro di me mi stringeva la testa come in una morsa. Dolce, diletta, desiderata, ti adoro, ti adoro! No, non stringete così forte, dissi io, quasi piangente per le molte diverse emozioni. Subito la calda stretta si rallentò. Ma no, gridai, così sento tutto. Cosa senti? Mormorò lui che pareva impazzito. Cosa senti? Ma il rumore del colpo, non voglio sentirlo. E mentre parlavo, il colpo partì, sentii come un pugno nel petto vicino alla spalla e credetti d'esser ferita, ma non era che il rinculo dell'arma. Tutti ridevano e applaudivano. Che cosa ho ucciso? Dissi io, aprendo con precauzione gli occhi. La terza bottiglia! Gridò Vasili, ed era così felice che corse da me e mi abbracciò. Ma la pistola che gli aveva in mano e lo sguardo d'ira gelosa con cui Bozevski mi fulminò mi riempirono l'anima di nuovo duplice spavento. Quel pomeriggio passò come un sogno folle. Vasili s'ubriacò quasi subito, del resto tutti bevemmo delle cose strane. Cocktails, mint, juleps, gin slang e poussé café, preparate dalla Grigorievskaya che era stata in America. Io ricordo vagamente che qualcuno mi scioglie i capelli e mi pone in piedi tra le bottiglie fracassate con una mela in testa. Davanti a me sta Vasili con la carabina e mi prende di mira, mentre gli altri gridano e protestano. Poi Bozevski strappa l'arma alle mani di mio marito e tra i due c'è una breve lotta. Poi si abbracciano, ridono e Bozevski è davanti a me, vicino, vicino a me, con la faccia che quasi tocca la mia. Siamo tutti e due ritti tra le bottiglie fracassate e Vasili spara. I proiettili ci volano intorno al capo, ma io non ho paura. Rido, rido guardando Bozevski che continua a dirmi ti adoro, con la bocca che quasi tocca la mia. Poi si pranza. Vengono dei boemi a far musica e infine, quando è già notte, torniamo fuori al bersaglio. Al posto delle bottiglie, Vasili ha fatto porre una fila di candele accese che dobbiamo spegnere sparando senza buttarle giù. Bozevski è sempre vicino a me. Io sparo, sparo, ma le candele girano come una ruota di stelle davanti ai miei occhi confusi. E Stahl ride e Bozevski sospira e i boemi suonano. Quando ecco la governante di Tioka viene correndo e mi chiama. Signora contessa, può venire un momento? Sì, Elisa, cosa c'è? C'è il signorino che non può dormire, dice che ella non gli ha dato la buonanotte. Io seguo per il giardino la piccola figura di Elisa Perrier, che sempre correndo mi precede verso la casa. Entro dietro a lei e salgo nella camera dei piccini. Tania dorme già. Le guance rosse e la vermiglia bocca semiaperta e una bambola di gomma sul guanciale, ma Tioka, seduto sul suo letto, mi aspetta. I grandi occhi fiammeggianti di innocenza guardano il mio viso, i miei capelli, la mia veste. Egli mi tende le braccia ed io nascondo la fronte su quel piccolo petto. Buonanotte, mamma, e mi bacia. Poi soggiunge: di quante cose sai? E ridendo mi fiuta le guance, i capelli, la bocca, sai, di cipria, di sigarette, e di profumo, e di cognac. E quell'elenco di gaie parole su quella piccola bocca d'angelo mi ferisce come tante pugnalate al cuore. Taci, taci, amor mio, gli singhiozzo chiusa in quelle esili braccia, come in un porto di salvezza. Perdona. Ma egli non sa che cosa abbia a perdonare e ride. E sbadiglia e poi si mette giù per dormire e mi tiene stretta la mano. Devi andare via? Chiede già per metà nel sonno. No, no, tesoro. Allora dimmi la poesia della Madonna ed io comincio. La Madonna coi piedi sulla luna. Ma Tioka dorme già.